queste qua? Le elementari erano? Le mie elementari le ho fatte qui. Si ricorda in che anno? Allora sono del 30 e il 43, quando anche venivano i tedeschi, in via Fortuna, in quinta elementare doveva fare il diploma di quinta elementare. Non l'ho fatta perché arrivai i tedeschi, i San Possessai della Palestra della scuola, che non è fatta neanche il buon diploma di quinta elementare, se prima fate. Avete capito? Quattro anni di quinta elementare, perché venivano ancora come l'Austria, obbligatorio 8 anni.